serpenti, incantati serpenti, io ce la canto e ho conficcato nella carne i loro denti. Incantati serpenti, incantati serpenti, io ce la canto, il veleno è l'antidoto per questi giorni orrendi. Dammi sto piffero che spiffero, troppi businessman, e di rapper man c'è rimasto solo G e sarcastico. Dire vuoi bene al prossimo, quando pure quelli che ho vicino mi divorano il midollo osseo. Oh, se lo sapessero, serpenti mangia coda, bigotte e massoniche ste mura, spazzatura rimarrà di tutta sta avventura. Mente manovrate si apriranno come i grandi, 27 anni in una sepoltura. Me ne sbatto di sti bastardi, volevan censurarmi, ora tutti li indico colosi. Sì, quando arrivi o se no tanto vale morì per ideali, riders. Sbatto in faccia e fuori, mangiatore di uomini, me ne sbatto. Abbattitore, freddo cuore, chiedo calore solare, non mi do arie, Dominus Ares, giù negli abissi con Ariel, anche se so volare. Chiedo siga per poi sbezzarle, e ogni cannon personal me ne fumo più di mezza solo. Certe esperienze ti danno consapevolezza che essere stronzi nella vita non è un difetto, frate, è un dono. Sta gente davvero pensa ad essere l'aria, si lamentano se li tratti da prioritaria. Zero stalloni, con voi ci gioco cavia, tutti quanti senza palle, li chiamerò come la mia puttana, Ilaria. Non mi parlare di meritocrazia, fino a che tua madre è viva, lavorato sodo pizza, zero corsicista, eppure ne so così tante che potrei lavorare come farmacista. Gimonello, tutti che mi guardano quando esco, pensano di capirmi solo dagli sguardi. Questo che esce è solo l'intro del mio estro. Gli occhi innamorati di un escort fanno sì che questo sogno galoppa. Frustino, mi lascio massaggiare, al massimo dressage, si merita solo un pompino. Stesso posto, stesso sogno, serpenti attorno, parenti sfondo. E se non sfondo, almeno dondolato sul mio basso fondo. Sai com'è, Monello, amo la critica come il big up, è questo il bello. Conoscere in pieno un artista, mo puoi chiamarmi Nello. Una barra non mi basta, tante barre che il prossimo disco lo faccio tutto solo al ritornello.